abbassati. La fatica accompagna le ali. Dopo un po' non fa più male. Non mi riscalda l'anima un altro caffè. Ho forza per tutto tranne che per me. Il sole ormai alto e non c'è traccia di me sull'asfalto. La radio strilla forte ed io con lei. Devo fare in fretta anche se non vorrei. Tutti mi aspettano, chissà poi perché. Ho parole per tutti tranne che per me. Vite, perché quel che ci unisce ci divide. Aquiloni in cielo senza filo e senza vento, ci aggrappiamo al forte uragano per la voglia di andare lontano. L'ombra mia si allunga verso est, non solo stress. Il mio ritorno ha solo poche certezze. Baci grandi e piccole carezze. Il resto è il vento quando c'è. Ho forza per tutto tranne il giorno per così dire. Il nuovo iniziato da più ore. Salgo le scale, chiudo la porta senza timore. Lei dorme serena e si potrebbe svegliare, ma non ho più sonno e prendo un altro caffè. C'è spazio per tutto in questa vita tranne che per me. Meridiani in volo senza ali, tanto immaginari quanto reali. Ci incontriamo là dove nessuno fa arrivare, nella follia che somiglia ai sogni, sperando che nessuno ci svegli. Sogni.